America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, vi ho proposto questa marcetta militare perché l'America oggi è chiusa, osserva il Memorial Day, mercati chiusi, banche chiuse, governo ovviamente chiuso. Il Memorial Day è la giornata che ricorda tutti i caduti in difesa della nazione, una giornata naturalmente emozionante, non solo perché si pensa alle guerre lontane del passato, ma perché purtroppo migliaia di caduti sono venuti a mancare proprio negli ultimi anni in Afghanistan, al fronte iracheno, e dunque grande tristezza, soprattutto ovviamente per le famiglie, gli amici, i parenti dei giovani soldati caduti. L'usanza di adornare le tombe dei soldati iniziò nel 1866, subito dopo la guerra civile, e infatti questa usanza si chiamò poi il Decoration Day, che fu ufficializzato nel 1868 e poi divenne Memorial Day nell'82. Poi nel 71, quindi in una data molto recente, il Congresso cambiò la data, che era per il 30 di maggio, la cambiò all'ultimo lunedì di maggio, e questo ha creato qualche polemica. Vediamo perché. Yankee Doodle went to town riding on a pony. He stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle, una delle più celebri canzoni patriottiche americane. Ecco perché la polemica. Beh, perché il Memorial Day coincide con l'apertura della stagione estiva in tutta l'America. Sono questi tre giorni che di fatto segnano, anche se non avviene da un punto di vista di stagione, ma segnano la fine della primavera e l'inizio dell'estate, quindi stagioni di case affittate, gente che si muove, famiglie che si ritrovano, si riuniscono, i barbecue e così via. Così via, qui vicino a New York si apre la stagione degli Hamptons a Long Island, tra Southampton e East Hampton. Ecco, comincia questo esodo estivo perché il caldo, devo dirvi, sta cominciando ad arrivare piuttosto violento anche qua. E dunque in questa giornata in realtà la gente non soltanto celebra appunto i caduti, ma celebra anche l'avvio dell'estate, e questo ha creato qualche risentimento fra i veterani. Ci fu un episodio che così lasciò il segno sui media americani, perché un veterano un giorno che andò a scuola e così raccontava ai bambini le sue esperienze di guerra, i caduti eccetera, chiese: che cos'è per voi, cosa rappresenta per voi il Memorial Day? E i ragazzi risposero: il giorno in cui si aprono le piscine. Il presidente americano Barack Obama è al cimitero nazionale di Elwood in Illinois, il vicepresidente Biden ad Arlington, il grande cimitero nazionale. Un po' in tutta l'America si osserva questa giornata molto triste proprio per i caduti che hanno perso la vita al fronte afghano e in quello iracheno. L'ultimo attacco kamikaze a Kabul della scorsa settimana ha stabilito la soglia dei 1000 soldati caduti americani in Afghanistan, e il giorno dopo il New York Times ha pubblicato tutte le foto di questi caduti, giovani di 18, 19, 20, 22 anni, poi naturalmente c'erano anche dei militari più vecchi, ma 30 anni, 36 anni, padri di famiglia. In Iraq i caduti dal marzo 2003 ad oggi sono addirittura 4.399, dunque sono 5.400 giovani americani che negli ultimi anni hanno perso la vita. Noi sappiamo quanto triste e doloroso sia quando arriva il messaggio che qualcuno è stato ucciso al fronte, e lo abbiamo visto la settimana scorsa con i due ragazzi italiani. Beh, immaginate questo moltiplicato per alcune migliaia. Eppure queste due guerre in fondo non sono neppure lontanamente vicine ai caduti che ci furono in Vietnam. 58.159 soldati americani caduti nella seconda guerra mondiale, 292.000 fra il 41 e il 45. torniamo un momento a capire che cosa significa poi questa estate per gli americani. Per Memorial Day oggi ci sono 31,2 milioni di americani in movimento, molti tornano a casa, magari al posto di lavoro. C'è stato un aumento del 5,4% rispetto all'anno scorso, e quindi significa che forse l'economia si sta davvero un pochettino riprendendo dopo 2 anni di magra. A Washington, soltanto a Washington, in questo lungo ponte, anche per partecipare alle cerimonie di Arlington e vedere i grandi monumenti ai caduti che ci sono nella capitale, sono arrivate 800.000 persone, il 6,5% in più rispetto al 2009. E invece Barack Obama da Washington è andato a Chicago. È la prima volta, tra l'altro, dal febbraio del 2009, tornerà nella sua casa, stile georgiano, 1,65 milioni di dollari di valutazione, con la moglie, le figlie naturalmente, e così distribuisce il suo tempo nei posti cari a Natale, come sappiamo, e in estate cerca di andare alle Hawaii. Buongiorno everybody. Buongiorno. Morning, friends. E cosa faranno gli americani a New York in questo weekend? Beh, andranno a Coney Island, al Luna Park, il parco dei divertimenti. La voce che avete ascoltato è di Alberto Zamperla, è un imprenditore italiano di Altavilla Vicentina. La sua ditta è una delle più importanti al mondo per la costruzione di parchi dei divertimenti, e dunque ha vinto il concorso qui a New York, perché il sindaco Bloomberg, che è intervenuto a questa cerimonia che vi abbiamo fatto ascoltare, aveva deciso di rilanciare Coney Island, che era rimasto chiuso forse per 20 o 30 anni. Il Luna Park di Coney Island aprì nel 1903, figuratevi, ed è il Luna Park originario. Si chiama così perché ci fu questa Pan American Exposition alla Fiera Mondiale di Buffalo nel 1901, e lì misero una navicella che prometteva un viaggio sulla Luna. Questa navicella arrivò poi a questo parco giochi di Coney Island quando fu inaugurato, e dunque ecco Luna Park. E dunque un'estate più felice per i newyorkesi grazie a questa nuova iniziativa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato prima dei caduti, della giornata della memoria e delle marcette militari. Vi abbiamo fatto ascoltare Il silenzio. Adesso parliamo invece di estate. Summertime, interpretazione di Sam Cook, Summertime and the Living is Easy, e la vita è facile. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.